I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Deborah Rosciani. Le borse hanno ripreso a marciare in direzione positiva da diverse sedute. Sembra un momento favorevole grazie al recupero del prezzo del petrolio che si è riportato sui massimi del 2016. Ci sono voci di un possibile incontro fra paesi membri e non membri dell'OPEC in Russia il mese prossimo, voci che hanno riacceso le speranze per un congelamento della produzione, speranze che erano tramontate domenica scorsa dopo che era finito con un nulla di fatto il meeting di Doha in Qatar. Giovedì abbiamo avuto una nuova riunione della Banca Centrale Europea che si è conclusa come nelle attese, senza interventi sui tassi, ma Mario Draghi ha promesso i tassi di interesse rimarranno sui livelli attuali o ancora più bassi a lungo, forse anche oltre l'orizzonte temporale fissato a settembre 2017, se questo dovesse rendersi necessario. Una serie di fattori che al momento dunque sostengono le borse. Nel corso della settimana il Dow Jones e lo Standard & Poor's 500 si sono consolidati al di sopra di soglie psicologiche considerate molto importanti, rispettivamente 18.000 e 2.100 punti. Anche Piazza Affari ha fatto la sua parte spolverando livelli di metà marzo. La settimana scorsa si è distinta ancora una volta per il forte fermento nel settore bancario e per il grande attivismo da parte della Consob, che sta dando il via libera a numerose operazioni. Il primo riguarda l'operatività del Fondo Atlante, il fondo di stabilizzazione bancaria. La società che lo gestirà, Questio SGR, ha fatto sapere di avere raccolto adesioni per un importo di oltre 4 miliardi di euro da 44 istituzioni italiane ed estere. C'è stato poi anche il via libera al prospetto informativo per la quotazione in borsa della Banca Popolare di Vicenza. Il periodo di offerta delle azioni termina il 28 aprile. Per l'agenda della settimana, oggi in Italia è festa ma la borsa è aperta, dalla Germania arriva l'importante indice di fiducia IFO, dagli Stati Uniti questa settimana aspettiamo gli ordini di beni durevoli, molte statistiche sull'andamento del mercato immobiliare e la riunione della Banca Centrale Americana. In Italia ci sono diverse aste di titoli di Stato per un importo complessivo di circa 13 miliardi. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. L'apertura della settimana comincia con i mercati in flessione. Un po' sono prese di profitto, un po' però sono anche le reazioni e i segnali di inquietudine che provengono comunque dall'economia globale, in attesa di vedere cosa dirà domani la Banca del Giappone, che dovrebbe portare sotto zero i tassi per i prestiti alle banche, e in attesa anche di quello che sceglierà la Fed mercoledì, che dovrebbe far capire ancora una volta che allontanerà ancora di più i tempi per il rialzo dei tassi. Oggi però sono state le materie prime a condizionare l'esito negativo dei listini, soprattutto dopo che il Fondo Monetario ha chiesto ai paesi del Golfo di adattarsi ancora per qualche anno ai bassi prezzi del petrolio e ha prospettato tra l'altro un dimezzamento della loro crescita, portandola dal 3,5% all'1,8%. Questo sicuramente ha un impatto cospicuo sulle aziende e sulle entrate fiscali di quei paesi, anche perché il prezzo del greggio da metà del 2014 a oggi è sceso del 70%. Non a caso, sempre oggi è stato presentato da parte dell'Arabia Saudita il piano strategico di diversificazione energetica, che è stato chiamato ampollosamente Visione Saudita dell'orizzonte del 2030. I sauditi insomma creeranno un fondo strategico di 2.000 miliardi con cui finanziare la ricerca sulle fonti alternative e metteranno sul mercato il 5% del loro gioiello petrolifero, la società Aramco. Il petrolio rimane naturalmente un fronte di piena turbolenza, anche perché è sempre di oggi la pressante richiesta delle autorità libiche al mondo internazionale per avere un aiuto affinché si possano mettere in sicurezza i pozzi di petrolio che invece sono diventati oggetto di una forte offensiva di terra da parte dei terroristi dell'ISIS. Sul fronte europeo invece il dato che ha fatto muovere i mercati è il calo dell'indice di fiducia tedesco, il cosiddetto IFO, che dà conto appunto delle perplessità dell'economia di quel paese rispetto al futuro, anche perché si è registrato un calo anche nell'indice che misura le aspettative. Insomma, sui mercati oggi la vera certezza è stata purtroppo l'incertezza. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.